Avanti! Avanti che fischia, capa! Ciao, ma ruota c'è qua. Ruota di cosa? Non so, perché ho acceso adesso e stavo controllando se era tutto a posto per l'antenna. Stavo controllando le stazionarie e correlamento incorporato. Ma siccome ho acceso e ho premuto, e ho detto non è. Mi ero detto il dubbio che ci fosse una ruota. Oh no, no, sento qualcuno ogni tanto. Vuole entrare, ma non so chi è. Oggi mi sono svegliato con mal di testa. Poi c'ho l'orecchio sinistro tutto chiuso, tutto incerinato. Ma oggi è Sant'Antonio, Mamma mi ha detto che è Sant'Antonio. Il tuo onomastico, Ti risulta? Non lo so, no. Ah, in regia mi dicono di sì, Sant'Antonio. Allora, auguri, buon onomastico. Ah, grazie. Credo che Santa abbia piovuto, Tanti auguri, Antonio. Mamma, tanti auguri, Antonio, ha detto. Grazie, grazie. Anche se non la conosco, parli tante grazie. Mamma c'ha questa passione per i santi, no? Per gli onomastici. E sempre ci fa il giro di telefonate quando ricorda amici col nome adatto, no? Quando c'è la festività. Eia. Bene, sì, dicevo, credo che abbia piovuto perché ho sentito come piovigginare di notte e poi era un po' umido fuori qua, quindi sicuramente ha piovuto, ma proprio tardissimo. Praticamente io fino alle 6:30 ero sveglio, non riuscivo a dormire. E ho dormito la mattina, tutta la mattina ho dormito. Ecco, sentivo un segnale poco fa più basso, sentivo. Non capivo però chi era. Sì, magari propagazione, io metto lo squelto. Poi. Dunque è ambiguo un po' come sale. Forse impressione mia, forse è il vento che muove l'antenna, ogni tanto vedo con una oscillazione micrometrica dello smitter, una cosa minima. Vabbè, non è novità comunque, me ne ero accorto da prima. Anche qua sta succedendo la stessa cosa, vedo l'antenna che si sta muovendo. Ehi, dicevo, propagazione potrebbe essere. Ieri c'era propagazione, io metto lo squelch, quindi non, più di tanto non me ne accorgo. Per non sentire il rumore di fondo metto lo squelch, poi sento sassi dintorni, certo se entrano per esempio dal ghero magari non li sento. Ok, tanto io ho fatto, la prova l'ho fatta, qua l'impianto sembra a posto, dai, ci sentiamo quando capita, adesso è troppo presto. Adesso mi accendo la TV, mi guarderò qualcosa in televisione. Ok, ci sentiamo. Adesso andiamo da 4 watt dell'apparecchio, già va bene, sì. Benissimo, la radio è pulita, non è satura. È una curiosità, tu con quanti watt lo piloti quel lineareto? E che lineareto è? Si può dire? 747. Ah, 747, perché quello se lo piloti in basso non satura, è di norma e regola, non satura, non dovrebbe saturare. Per esempio quello che avevo io, che non uso, dice massimo 10 watt in ingresso, se ne dai 5 va bene, da 5 in giù va tutto bene. Se ne dai per esempio già 7 comincia a saturare, inizia pian piano a saturare, sente di più alzi di più la potenza, quindi quando ne do 4 è di super lusso, proprio non satura niente, anzi non solo non satura, ma ti aumenta leggermente la modulazione, non so perché, è una caratteristica che ho notato. K. Ah, vai, è agganciato, eh. Hola. Vabbè, conta che ci sarà una leggera saturazione per via della vicinanza anche. Aspetta che ti attenuo, provo un po'. 2-3, prova radio, 1-2-3. No, si nota, si nota, anche se ti porto basso di segnale, si nota una certa saturazione. Non è perfetta, non è limpida, però è capibile, niente da dire. Ok, tanto buona serata, sono ancora tutto mezzo intasato. C'ho l'orecchio sinistro, poi che non riesco a sbloccarmi. È chiuso, non riesco a... C'ho anche un po' di mal d'orecchio, deve essere un po' di otite. Ha preso freddo così. E quindi ci sentiamo stasera, sento, dai. E se no alla prossima volta, ok? Ciao, buona serata, ciao. Ciao, ciao Marco, ci risentiamo alle prossime, ciao ciao. Attacca l'aspirapolvere, Marco. Dai. Ai, motopompa. Dai, tu sì che mi cambi il nervo. Eia, me lo studo con l'aspirapolvere. No, guarda, se avessi avuto quello per l'orecchio, come si chiama? Otalgan. Anche contro il mal d'orecchio, tipi, l'avrei messo, però non ne ho. Poi oggi è sabato, non so chi ci sia di turno. Ma una volta dicevano, sai, i metodi degli anziani, di mettere una goccia di olio di oliva un po' calda, tiepida. Ma io poco ci credo. Non devi mettere oliva, devi mettere acqua tiepida. Hai capito? Prendi, come si chiama, ti metti un po' di, con la siringa, senza l'ago naturalmente, ti metti l'acqua tiepida per 2-3 volte, dopodiché prendi e svuoti e vedrai che ti esce tutto il cerume. Ma non è questione di cerume, questa è questione di mal d'orecchio, come se avessi preso freddo, tipo otite, capito? Se no prendo lo stura lavandino e comincio a sturare, qualcosa uscirà, magari ne esce il timpano. Sono occupati quegli affari che vedono lo spin, sembrano cannoni siciliani, sembrano, lo sai, quegli affari che si di cera, ti metti fuoco sopra e aspira tutto il cerume e ti passa tutto quanto. Questa è una cazzata, ce ne sono due nel pacchetto. Ma devo spirito li prendi, sono coni, si chiamano coni per il cerume, capito? Sì, sì, li conosco, quelli li accendi, sembrano dei cannoni, sembrano. Bravo, se ti metti uno di quelli orecchi, uno di quelli dell'altro e stura immediatamente. Non è problema di nient'altro. Basta che lo accendi e lascia fare il soccorso. Quanto è? 2-3 minuti, quello che è. Perché vedi come sale il cerume. Capito? Sì, però ripeto, non credo sia cerume. Vabbè, si vedrà, dai. Ok, messi Antonio, io, vabbè, chiudo al momento, lascio acceso, dovrei fare i piatti, mamma mia, nasce una gana, ciucciu, sono ancora in pigiama io, pigiama. E io la vado appena in terra adesso. Buongiorno Antonio, mi hai sentito anche a te comunque. Una volta per andare adesso e quindi io sono tutta in cameretta per poter far asciugare il pavimento. Poi già me lo sono a posto perché stamattina ha fatto la pupù il cane, è venuto Daniele quando giocano col cane, il cane, capito, fa immediatamente la pupù. E quindi non l'ho fatto stamattina, il lavaggio l'ho fatto adesso. Con quella specie di cosa profumato che c'è lo spì. E in più ci ho messo anche la gel, parecchina gel, capito? In modo che possa pulire tutto. Anzi, igienizzare più che altro. La parecchina serve per igienizzare. Per uccidere il Covid. Il Covid, se sei da pigliarlo, tu lo prendi lo stesso. Secondo qui in casa di chi vai, stai tranquilla, se c'è 4-5 giorni che non apre le finestre, te lo pigli lo stesso. Non è che ti fitti poi tanto per quel cavo, i conti, ti fa sudare quelle mascherine, quelle da chirurgo. Cioè, come se stanno usando le mascherine tue, quelle che c'hai tu, me. Quelle anticazze stanno usando in ospedale, hanno cambiato il sistema adesso. Ma quali sono quelle che coprono solo il naso e bocca e hanno, che ne so, quei due filtri laterali o quello che copre tutta la faccia intera? No, quello che copre la faccia intera e c'ha due filtri laterali, stiamo usando. Ah, all'anima? Allora la cosa è più grave di quanto sembri, porca miseria, tipo protocollo NBC mi stanno usando. Ciu. Ma la Cina non dice più niente, ha notato. Sembra che abbiamo risolto tutto. Ma non è che quei figli di Ndrocchia ci hanno... Cioè, come avevano sviluppato il virus in laboratorio, hanno sviluppato anche il vaccino e quindi hanno già risolto loro. E non dicono niente. Oppure non hanno risolto niente, ma in Cina, non essendo un paese democratico, non fanno uscire informazioni, capito? Non lo sapremo mai. Allora tu dici che sono tutti guariti, io non ci credo, la verità. Che non c'è neanche un caso, la verità non ci credo io. Secondo me nascondono tutto, vabbè, lì in Cina sono fortunati, la verità, perché ti portano tutto a casa. Invece qui in Europa come fai a farti campare dallo Stato? Invece lì in Cina campano a tutti, capito? Tu devi rimanere a casa, ti portano a mangiare a casa, ti portano tutta a casa tua, tu non ti devi muovere, ti vuoi la pizza, ti portano la pizza, paga tutto lo Stato, hai capito? Quindi non falliscono mai lì, non ti preoccupare, che lì non falliscono mai. Avanti, tu. Anche la femmina ti portano, Ale. E anche quella, vabbè, quella... Ce l'è, vabbè, se questi ce l'ho, già lo sai come fanno lì in Cina, no? Non si chiamano avanti là, si chiamano concubine, cioè uno che ha un bel soldi. Non fa altro che andare, che comprano un appartamento all'amante e lui va dall'amante, capito, a fare le cose che deve fare. Poi quando viene scoperto, le due, cioè moglie e amante, si trovano in strada, si picchiano in strada e nessuno interviene. Si sentono per i fatti loro. Gli imperatori facevano così, capito? Avevano erano concubine e tutto era, vabbè, lì la donna era tenuta un po' schiava, ma doveva tenere la testa bassa, capito? Guarda che le donne lì in Cina non sono calcolate ancora, meglio lo sai, anzi le figlie preferiscono avere tutti i maschi e basta, senza donne. Le donne sono proprio classificate, in pratica devono fare quello che vogliono gli uomini, tutto lì. Avanti, che vuole entrare? No, stavo facendo una prova io, ce l'ho fatta a Marco, vedere quanto arrivavo sia io che lui. Quanti, che differenza c'è? Io vabbè, adesso sono con 4 watt omologati. Che differenza c'è tra Marco? Non so quanti watt stai usando, Marco. Allora, il baracchino ne ha 4, però il filtro mi toglie un watt, quindi sono 3 watt. 3 watt puliti. Ah, io parlo, tu parla assieme a me. Valo basso. 2-3 prova. Sì, già lo passi, sempre che c'è uno. Avanti, che vuole passare dalla porta. Avanti, buonasera. Sì, ma lo passo col crepo, mi sembrava quello di Paolo Torres, e invece non è lui. Avanti, amico, vuole passare. Ce ne passi domani, Santiago 5. No, anche più forte qua, cos'era? Tipo 7, 8 anche. Non ho fatto in tempo a vedere, ho sentito, prova, avanti, buonasera. Niente, timido, non vuole entrare. E beh, chi arriva più forte? Io Antonio. Antonio 4 watt. Il cavo lungo, vabbè, 3, ufficialmente. Tu sei 928, 925. Adesso è attaccato Antonio da Severino, il barrando. Che avanti, che voleva entrare poco fa, che l'ho sentito un pochettino basso. Era Santiago 7, dai. Oh, ioia. Buonasera. Ma che c'è? Non ho capito. va bene che c'è, avanti. Un pugno, tu sei di Porto Torres. Ah, vabbè, mi sono sbagliato. Aiuto, dimmi chi sei, un sciapporco, dimmi tutto chi sei. Lo voglio che ti capiteglia, sono Antonio Riserva, sono. Ah, Antonio Preserva, ciao Antonio Preserva, ben sentito, ca. Ciò, ancora bruventi, sì, sono passati 1000 anni e ancora vedi di bruventi. Beh, bisogna fare un ritardo, ca. E tu, perché non ti metti l'antenna come si deve, in modo da uscire forte, come la volta? Io sono in campagna, Antonio. 8:30 qua, comunque, qua è abbastanza buono, è la radio pulita. Ciao Marco, ben ascoltato. Però me non ci sono problemi. Buonasera Antonio Riserva, buonasera. Sono Zona Filiedu, non l'avevi messa l'antenna esterna, no? Avete parlato in tre e non è passato neanche uno. Ah, io non ho detto niente, è Antonio con Marco. Allora avete parlato in due e non è passato neanche uno. No, io ho sentito solo Pomponio adesso. Adesso, prima, quando qualcuno stava parlando, uno sopra l'altro, perché non ho sentito niente. Scappa, no, ero io che ho salutato. Buonasera Antonio Riserva, buonasera. Anche da me arrivi intorno a Santiago 8, Radio 5, là. Abbastanza bene. Bene, qui buonasera anche a te. Bene, dall'8 quindi non mi muovo. Caspita, molto però un po' bassino, Marco, no? No, dipende, ma sì, a Filigheto o più lontano in zona di campagna? No, io sono sulla Budivudi, praticamente sono tra Sorso e la Budivudi, a metà strada. E beh, 8:30 qua, 8:30 e sei normali 4 watt, baracchino normale, poi non so che antennai, ma l'avevi messa a 5 ottavi o no? No, c'ho un amico chiamato, ma i radiali sono praticamente, ce ne sono solo due, e li appoggiate sul tetto. Esce solo lo stilo. E l'apparecchio questo fa la cosa, mi ha dato 4 watt. Beh, se le condizioni sono quelle, a uso città ce n'è d'avanzo, 8:30 qua è pulitissimo, pulitissimo, il QRM mi pare sia a Santiago 3, nemmeno, 2. No, io non ne ho per niente il QRM, lo sento, sì, però non mi muovo l'ago dello zitter. Ehi, sì, il QRM, che poi il rumore elettrico, io qua sono circondato un po', cioè le palatine sono tutte attaccate una all'altra, quindi è QRM elettrico, non è QRM atmosferico. Ascoltami un attimo che voglio fare una prova, riprendete voi. Deia, tutto ciò che vuoi, riprendi Antonio. Cappa, no, qua già, non sento, arriva abbastanza. Ok, adesso vediamo la prova che vuole fare, sentirlo un po' di più. Deia, e beh Antonio, e tu? Com'è la situazione? Riesci a uscire un po'? A distrarti ogni tanto, anche vicino lì, zona distributore. Sì, sono venuti i contatti, sì e nome. Figurati, succede lui in testa, sto scendo. Adesso c'è Giampiero, che vuole farsi i raggi, vuole andare in un ambulatorio privato, eccetera, eccetera. Ieri l'ho dovuto lavare, l'ho dovuto fare la barba, l'ho dovuto fare i capelli. E di una di casa ci guarda come mancante, cioè qua. Io che mi ricovero io in psichiatria, cazzo, me ne, guarda, mi faccio portare l'infermiere, cazzo, come si chiama, mi porti un bel boccione di vino, così mangia a pranzo. Io sono ancora in pigiama, Antonio. Segui i pigiami con i bottoni davanti, color carta da zucchero, tipo ospedale, mi sembro scappato dall'ospedale psichiatrico. Cosa c'è? Però quello c'ho anche io. Sì, Antonio, ti sei abbassato, va? Sei Santiago 3 e 4. Quindi adesso sono 3 e 4, quindi è cambiato. Marco, da te? Diciamo 8 abbondante, però sei calato rispetto a prima, che era 8:30. Dai, riprendete che voglio fare ancora un'altra prova. No, adesso ho cambiato antenna. Adesso voglio fare ancora un'altra prova, riprendete. Deia. E tu, Anto, oggi sabato sera non lavori, no? Negativo, no, non lavoro il sabato sera. Sai perché? Qua, allora, la bombola, hai detto, ma ordina la bombola in tempo, ordina i giorni feriali, guarda, ha detto che se manca la bombola manca il sabato sera o la domenica. Infatti l'altra volta puntualmente il sabato sera mancata la bombola, e siccome noi cuciniamo un po' tardi, sabato pomeriggio è mancata, abbiamo dovuto usare i fornelletti tipo campeggio, mica, ne ho di tutti i tipi, ce ne ho a gas, a gel, ad alcol, a biomasse e non so cos'altro, un bel di roba, a pastiglie, combustibili, tipo Esbit o come si chiama, e mi sono dovuto arrangiare con quelli. Nel caso, vabbè, io ce l'ho sempre la bombola di scorta. Nel caso c'ho un fornello tipo quelli, cioè una cucinetta a campeggio, che funziona che è una meraviglia. La prima volta che sono arrivato in questa casa l'ho utilizzata, l'ho. Eia. Ma per caso qual è quella cucinetta con più fuochi oppure quella camping gas rettangolare con un fuoco che usa le bombolette lunghe? Proprio quella che usa le bombolette lunghe, funziona che è una meraviglia, funziona. Sì, è vero, è un bijou, si chiama Camping Gas Bistro, modello Bistro, o Bistro 2, e c'ha un bel bruciatore, caspita se funziona bene, e che si mangia le bombolette, proprio se le mangia, cioè fai cuocere la pasta, che ne so, tre volte e finita la bomboletta. E vediamo se Antonio ha provato ha modificato qualcosa. Antonio? Ancora no. Antonio, riprimi. Ecco. Guarda, quando disintegro la cucina che c'ho di qui, il prossimo mese ti recupero la piastra elettrica, perché c'ho la piastra elettrica sopra, c'ho tre cose normali e poi la piastra elettrica. Te la metto da parte, Marco. Ti procuri un affare in ceramica tondo, ci metti la piastra elettrica, dico che finisce a posto. Non c'è problema, Antone, te l'ho detto, sono munito di fornelletti di vario tipo. Allora, ce li ho con la bombola lunga, con la bomboletta stretta e lunga, mi pare si chiami CP250. Poi ce l'ho con le bombolette a forare, quelle piccoline classiche. Poi ce l'ho quelle con bomboletta a vite. E quelli sono, ne ho sia piccoli sia ad alta potenza i fornelletti. Sembra una fiamma ossidrica, sono allucinanti, è roba cinese a poco prezzo. Sono le copie praticamente dei fornelletti, aspetta, le marche adesso non me le ricordo. Anche quei fornelletti che vedi da Decathlon sono le coppie cinesi fatte identici, ma c'hanno una potenza incredibile. E poi tanti altri speciali, vabbè, con combustibile solido, combustibile in gel, che poi è alcol in gel praticamente, eccetera. Ho capito. No, di quello non ho mai preso, in realtà. Non ci ho mai pensato. Perché perché c'è un gas del bombolone grande che ci abbiamo giù all'ingresso del palazzo. Poi ci abbiamo anche il posto dell'acqua da 15.000 litri, quindi a quando finirà l'acqua ci passa una settimana, ci passa. Anche se mi manca l'acqua, a me a Sassari l'acqua ce l'ho lo stesso. Magari ci sarà il virus, quello che vuoi, però l'acqua già c'è, a me per lavarti. Qua è diverso. Diciamo che qua, quando hanno fatto il palazzo, c'era un vascone a testa, no? E siccome nonno se n'è fregato, non ha mai fatto l'allaccio al vascone, qualcuno se n'è preso due famiglie, se ne sono presi due, perché erano inutilizzati, dice, vabbè, questi non si vogliono agganciare, allora ci ribidiamo noi. Colpa di nonno, quella è una mancanza grave, se no avremo 1.000 litri a testa per ogni condomino. Sì, a voglia di litri che ti durano 2 o 3 giorni, 4 giorni, quello che è. Sì, infatti giovedì era mancata l'acqua, giovedì. E poi quando è tornata l'acqua, devi vedere, la prima che è uscita era marrone, sembrava sciolta. Immaginati la modestia che c'era in quella riparazione che hanno fatto, le tubature. E infatti finché non l'ho vista cristallina non l'ho lasciata scorrere. Antonio, hai approntato le modifiche? Vediamo un po'. Sì, ci stavo provando. 8,5 come prima, più o meno. Modulato, prova a fischiare. È cambiato qualcosa da qualcuno? Uguale a prima. Sì, come appena sei entrato sei rimasto così. Aspetta che faccio un altro passaggio. No, vedi un po' adesso. 1, 2, 3, prova, 1, 2. Cazzo, minchia, 9 più 15 qua, di botto, da 8 e mezza a 9 più 15. Oh, ma la zucca. Dove striscia la sacca? 9 e 20 arriva qua. Non è roba di lineare questa, no? Ah, così è. Malvado. Stacca il 2002, stacca. Cazzo, quanti mo' fa mi hai detto? Parate male bene come arrivavi prima. Adesso te ne sono una dimostrazione e ti stai offendendo, Antonio. No, una volta quando, abitavi lì, prima nella discesa per andare a Sonso, la questione era diversa, già lo sai. Vabbè, però lì avevo, Antonio, 16 metri di palo e più l'antenna su con tiranti che non ti dico nulla di corda. Prima ancora quando abitavo al Sacro Cuore già mi difendevo bene anche da lì. Adesso mi hai giambato, cioè, siamo 25 adesso. Mi ha aumentato a voglia, barrato, e ti sei attrezzato un vesto. Ma non vai in saturazione? Sono pulita, la modulazione è buona. No, no, è pulita, senza saturazione, senza niente. No, c'ho un po' di alternata perché ho un alimentatore piccolo. Devo recuperare un alimentatore più grandetto. Marco, riprendi. Sì, ottimo segnale. Ma è antenna oppure aiutino? Interrogativo. Diciamo che c'è un misto, da, c'è uno e l'altro. Questo è di lusso, di lusso. Bene, Antonio, ci sei ancora? La voglia che ci sono. Cavolo, adesso arriva abbastanza forte pure qua. C'è quasi 9.20, sì. Bene, tu Antonio dove sei? In zona Corso Vico. Quindi già siamo lontanucci, da. Non è che siamo proprio vicini. Pensavo fossi a Latte Dolce io. No, prima ero a Latte Dolce, adesso non più. Ah, bene, bene, bene. Ma poi è diverso, adesso c'ho l'antenna sul tetto, prima non ce l'avevo. Io adesso, se ne ho voglia, la piatterò in settimana un antennino sul tetto, su a Sassari. Che ho fatto dei lavori l'altro giorno, mi sono già murato il palo, tutto. Però poi non ho avuto voglia, Marco, non ce n'è più voglia, non c'è più entusiasmo. Poco. Sì, entriamo, però poi, se non hai qualche argomento buono a portare avanti, alla fine è proprio per ammazzare il tempo, così. Vabbè, magari sai, ogni tanto ci potrebbe essere anche un argomento sul quale si possono anche dedicare dei minuti, delle mezz'ore. Il capo. Che antenna ti vorresti mettere? No, ce l'ho già un'antenna, una mezz'onda, non so cosa mala sorte sia, un energy forse. Ah, ho capito. Energy, però non quella con i radiali, l'altra. Quella è ottima, costa anche 80 euro quella lì. Sì, perché prima volevo mettere una stella, che ce l'ho qua in campagna smontata, ma è troppo invadente, 20.000 radiali. Oh, vai con quella, con chi sei un bel forci, dici. Praticamente è come quella che c'ha coso. Marco, però è un pochettino, cioè una è 5 ottavi e l'altra è mezz'onda, non cambia niente. La 5 ottavi è sempre 5 ottavi. Esci un voci, pure io c'ho una mezz'onda, c'ho la Ringo e già vedo che esce. Tu hai la Ringo, io sto usando la Oreo. Sì, io lo sai. Esci Maria. Oia, poi c'ha dei bei radialoni da 1,30 m, la Energy 5 ottavi, 1,30 m i radiali, ovviamente non caricati, alluminio, no, alluminio forato. E ti dirò che in 6 anni tra pigioni, cornacchie, ancora i radiali sono al posto loro, vento, non si sono mossi. No, è una buona antenna la Energy, che diciamo la verità, oggi come oggi antenne buone non ne fabbrica più nessuno. Sì, ma c'è sempre cinese, cioè la Energy mezz'onda 5 ottavi la fa la Sirio con nome GPE e GPS. La Sirio ti dà solo un manicotto di plastica che tu metti sulle giunture dello stilo per evitare infiltrazioni, però siccome il manicotto è praticamente un pezzo di plastica infilato sopra. Io oltre al manicotto ci metterei, ovviamente, come abbiamo fatto noi quella volta con Pomponio, autovulcanizzante a furia dura, in modo che non passi lo straniero, non deve entrare una goccia d'acqua. L'abbiamo isolata bene quella volta. Antonetti, te lo ricordi? Sì, prima vasellina, poi sopra l'autovulcanizzante. E mo se ci sono, lo sai che il lazzo si allarga, si stringe, si allarga e si stringe, in modo si formi la condensa. Dopodiché sopra la sua vulcanizzata e l'altro isolante. La uglia la stacca quando vuole con l'antenna. L'unica cosa è che tiene pochi watt, vabbè, non è un problema per me, perché è un'antenna che con quella, cioè, a parte lo stilo, no? C'è quella bobina che è sottile, quella sembra una bobina di antenna veicolare, quindi è data per 500 watt picco picco, quindi in banda laterale. Io non mi fiderei a dargliene la metà continui, gliene darei un terzo, tipo 150 continui, ma non mi spingerei oltre. E tanto, chi li usa 150 in AM? Per carità. Già quello lì, l'RM Italian da 70, puliti 80, e sono già troppi. Io va bene, mi piace anche 200, 300, se ce la pesci. Spesso sono 3 watt, 4, vabbè, ogni tanto qualche baracchino a 10 watt, e lo lascio a 10 per non stare alza bassa. Ma dai, io vi devo salutare, devo uscire un attimino. Noi ce la risentiamo più tardi, se incontrate, dai. Ciao Otto, ci sentiamo. Ciao. Ciao Anto, buona passeggiata. E qua in piazza, dalla Piazza Italia si sente musica, via Roma, Piazza Italia, ma cosa c'è? La festa del Covid? Ecco, cosa ne so, sarà tutti insieme per ammalarci. Uiuia. Bene, dove eravamo rimasti? No, una cosa volevo chiedere a Antonio. Riguardo la Venom, no? Cioè, che se c'è una 5 ottavi, no? Che già è raccorciata rispetto a una normale 5 ottavi, perché è 5,80 m, però perché mettere radiali da 40 cm? 3 radiali da 40 cm? Cioè, cosa succede? Cosa perde in prestazioni o cos'altro? Ma secondo me c'è che di lei più uguale. Io all'inizio, quando l'ho vista, no, ho visto il prezzo, ho detto, ma mi sa che mi prendo una di queste, che alla fin fine costa quanto una boomerang. Però ho sentito di persone che praticamente dopo 2 giorni gli è volata dal tetto. Sai cos'è? È costruita ancora più economica, la lingua è impastata. E vabbè, ho capito, sì. C'è fatta ancora più economica rispetto alla Energy. C'ha quelle fascette brutte tipo Ringo, E forse lo stile è ancora più sottile come spessore di materiale. Non lo so, bisognerebbe toccarla con mano. Io avrei voluto una mezz'onda della Venom da tenere da parte per usi futuri, installazioni temporanee, test. Però, niente, da Media Globe prima erano in arrivo e poi è apparso articolo esaurito. Probabilmente erano prenotate. E adesso poi con questa storia del Covid in Alta Italia qualcuno si sta di nuovo attrezzando. No, io per quelle cose così ho la boomerang, quella da 3 metri, ma ti posso dire che la resa è buona, perché io poco fa quando ho fatto il passaggio, la prima volta stavo utilizzando la mantova che comunque è appoggiata con le rete sul tetto, la seconda volta che ti ho detto si è calato di segnale, ma comunque stavo usando la boomerang, ma è anche quella un metro da terra, quindi vedi bene che... E io... Sì, comunque ci sarà sicuramente una spiegazione, cioè se questa che io ho, cioè da 1,30 m e quella da 40 cm, sicuramente perderà in prestazioni, qualche inghippo ci deve essere. E poi la boomerang, a molti rende poco perché la mettono al terrazzino, magari sono in piani bassi, però se la metti sul tetto è pur sempre un quarto d'onda effettivo. Qualcuno dice che sia addirittiva, io non la considero direttiva, sì è leggermente direzionale, cioè il lobo di radiazione un po' si protende leggermente in direzione del radiale, ma non la considero direttiva, addirittura. Direttiva mi pare un termine troppo azzardato, dai. Vabbè, dicono così per via del radiale, perché dicono che radia la maggior parte del suo segnale lì dove il radiale viene puntato, ma non c'entra niente. Di solito il radiale uno lo punta nella parte più a vista che ha. Sì, è come quel diagramma di radiazione che c'è sulle antenne veicolari Sirio, no? Cioè se la monti in centrotetto è uniforme, se la metti, che ne so, con la staffa sul bordo del tetto, lo stesso, il lobo di radiazione va in direzione del piano riflettente, si deforma un po', capito? Lo stesso se la metti a baule dietro, se la metti a parafango, ma è trascurabile, dai. Vabbè, certo, cosa può cambiare? Non cambia niente. Pomponia! Dimmi tutto. Finito hai di lavare per terra. Ho fatto asciugare a Muglia, c'è la finestra aperta, sono in mezzo all'aria, figurati tu. Almeno non mi vedo i coglioni di 19. Ah, non male che è cambiato il tempo, stamattina, stanotte piovendo, roba a non credere. Qua non ho fatto manco una goccia, la verità. La sera da c'era, attenzione con le nuvole di nebbia, uguale, la sera senti qualcosa ieri notte. Da partire, come ti posso dire, la carbonanza in poi, tutto nuvole di umidità, di nebbia, pioggia, niente. Ma no, qua ne ha fatto tanto, è tutto allagato il terreno, ne ha scaricato un bel po' qui, poi non so, dipende, sicuramente l'ha fatto a macchia di leopardo. Senz'altro è così, ma qui non ha fatto manco una goccia. Io notte, guarda, lì dice mezzo di 11, ho aperto la finestra, se mi ha detto che c'è più vedo, non c'è più vedo, ho detto. Se il tetto è asciutto come il coso, controllo, diciamo, le nuvole, quelle nuvole famose quando tipo condensa, ce l'hai presente, uguali, quindi tanto c'è nebbia, fatela così. Questa mattina è una bella, non c'era nulla, la strada, tutto asciutto è, okay. È la zona che piove, già lo sa. Io quando scendevo in campagna con mio padre, lo ricordo sempre, quando scendeva l'aria a Carbonazzi, io in campagna manco una goccia d'acqua, quando pioveva in dare produttore si manco una goccia d'acqua lì a Carbonazzi, faceva il contrario. Poi questo è un tempo particolare per le piogge, ancora è un po' così. Speriamo che non faccia molto freddo quest'anno, se no mi rovina tutte le piante. Ah, tranquillo che ti ha segnato un po' di aria calda la prossima settimana. Adesso c'è appena appena di maestrale e basta, ma poca roba. Oggi e domani c'è lo limpido, appena appena nuvoloso, ma acqua nulla, non ti preoccupare. Poi la prossima settimana arriva l'anticiclone Christian, si chiama. Temperature 26, 27 gradi, 28, quindi a voi avete più di influenza, che ce n'è. Allora cosa faccio? Ne metto la piscina io. Ritorniamo al mare. Allora io riempio di nuovo la piscina. Anto, il segnale è sceso, non so se è toccato qualcosa, 9-10. È calato o di su oppure hai toccato qualcosa. Vai, abusivo. C'è, mi qua. Vedi un po', 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Beh, più o meno lì, a cavallo tra 9-10 e 9-15. Ah, il Alfa 1, caro. Certo. La polare, va me. Eia, ma puoi rimanere? No, sono più abusivo di te. Se siamo abusivi noi. Ci abbiamo pure gli omologati, 3.900 omologati, è una vergogna tenerlo 40 canali, mi piede la disperazione. Come tu? Stava chiamando Natalino. No, stavo salutando Natalino, ma non mi sente. Già ti sente, ha fatto solo un passaggio. Sono lì da... ti tira il secolo dell'acqua là sopra. Ancora? Sì, Natalino è in lockdown per le trasmissioni, capito? Scusa, ma non ti commenti, compagno, 100 metri il capo e te lo lasci sulla capota della macchina, l'antenna in modo da casa. Ehi, troppo lì, situazione un po' strana, che nessuno è intenzionato a risolvere, capito? Forse per Natalino sarebbe risolta, però, a quanto pare. Lui me ne sei andato 10 volte. A parte, lui aveva già le emissioni a norma già da tempo, le sue emissioni sono a norma, non dipende da lui, quindi già appurato. Riprendi Antonè. PHK. Già va bene, già va bene. Io c'ho l'apparato uguale a quello di Natalino, mamma mia, quando l'ho comprato, mi sono messo l'unico microfono che va bene è DM1000, l'unico, guarda, l'unico che va bene, a parte che il televato che c'ha giusti, mi. Se ne hai 6 sparisce in trasmissione in FM, come le gatti stanno facendo adesso, sono delle gaggate, so. Vabbè, comunque sia, vabbè, lo tengo così come se la biglia in culo, già rimane in macchina quando lo uso. A voi, se lo fregano non ci ho rimesso nulla. Ah, ma dici il Polmar? È il Polmar, sì. È l'unico, o ci metti il 2300, o ci metti i DM1000, è l'unico che va bene. Non posso parlare solo di là. HI. In PMR. Ehi. Ho capito. Poi stavo pensando, se ti metti un'antenna tipo di Amazon, dove c'è la parabola, dato che c'hai la staffa già piazzata, ti metti una diamante lì, col PMR dovresti uscire un demonio, dovresti uscire. Lui, quelle antenne devono avere spazio libero, Antonio, se no radiano una massa. Quella della macchina sto parlando io, già lo so, quelle che le diamante, se non sono alte 4 metri, tipo l'X300 che ho io, no, riceve benissimo, ma la trasmissione non ce l'è, hai capito? L'unica che esce bene è la diamante, quella bibanda per la macchina, messa con una staffetta L lì, esce come un coso, esce come un demonio, perché l'ho pensata nella pipetta vicino all'antenna vicino alla mantova, figurati, usciva benissimo, parlavo in tutti i posti, parlavo. Queste antenne, poi quelle frequenze lì sono un po' palorde. C'è già, da 1,5 metri. Aspetta un attimo. Allora, se c'è già, meglio per te, visto che ho pensato a quello che dovevi fare, è andato bene. Avanti Marco. Oh, faccio un attimo di bianco, devo smontare una cosa, dai, prendete voi, ti ascolto. Ehi, d'accordo. Ui, aia. Che brutta antenna, cazzo, l'X300, l'X30, se non la metti in alto 3-4 metri non escono un cazzo con le antenne, Marco, nulla, trasmissione fanno schifo, ma ricezione sono a posto. Ci siete? Sparite, forse, vabbè. Sono qua, non ti preoccupare, sono qua. No, stavamo provando là con l'altra persona. Purtroppo non c'è apparecchio che si salvi, Sempre mi abbatte i segnali là. C'è niente da fare, ripetitore è troppo vicino. Quello un po' di fredda? No, io ne ho uno qua in Viale Mameli, c'è un ripetitore a 30 metri, ce l'ho proprio davanti, 30 metri. Mi abbatte tutti i segnali. Pazienza. Io ce l'ho neanche 30 metri qua, ne ho due ripetitori, c'ho 5G. Sì, ma tu sei più in alto e compensa, riesci a ricevere comunque segnali, Antonè. Ma scusa, tu con che apparecchio ricevi? Sì, 27 che con quale banda, che c'entra? Cioè, nel senso che adesso sono andato alla 87 e perlomeno con quale banda non mi ha dato nessun fastidio a me. Nulla mai detto, ma quello è filtrato, quello lì in PMR c'ha dei filtri e controfiltri di ricezione, questi invece in ricezione non hanno alcun filtro, cioè sono dei cessini, vanno bene in antennina, il solito discorso fatto e rifatto, Antonio. Ah, stai parlando dei portatili tu. Eia, Eia, si accende, mi può accendere. Acceso, acceso, non ti preoccupare. Certo che ti ascolto, 1, 3, 4, 5, 6. E tu come senti? Parla. Sì, parla, parla tu Antone. Se stai parlando zero totale, zero totale, guarda. Vai tu Natali. Vai tu Natali. Senti Antone. Visto come arrivi bene? Però devo aprire lo squelcio a mano, capito? Nel QRM, Antone parla, parla su, parla su. E parla? Niente, se stai parlando niente, che pasticcio, infatti di. No, non ha senso, sto PMR, sta bene il 27, il ragazzo PMR. Ma Antonio c'è ancora o ha chiuso? Io lo ascolto lì, in PMR, arriva anche bene. Ascolto anche a te, aspetta che attacco la verticale, se c'è cade il carretto, se la sa acciappallo, che è un casino di gravi. Dove ti trovato? Aspetta, attacco la verticale, vediamo se mi senti. È inutile dai, qua è inutile, è inutile. Una cosa incredibile, guarda, incredibile. Con lo Yaesu non lo faceva, lo Yaesu ha gli stati d'ingresso belli filtrati, non ne prende mondezza da ripetitori cellulari, radio FM, vabbè, pazienza. Guarda che sto provando con la verticale, Marco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, PMR mi ascolti? Parla, prova a parlare che apro lo squelch, parla. Solo QRM qua, solo QRM. Non passa nessuno. Aspetta un secondo. Ui ui, sta peggiorando sta cosa. Porca mignotta. Comunque io mi astengo da riprendere perché rischio di sovramodulare lì, senza rendermene conto. Comunque non c'è storia, Natalia, anche quello che pensavo che fosse migliore non c'è storia. Piglia colpi, capito? B5. Niente, mi si chiude lo squelch. Adesso, vabbè, ne ho goduto, dai, inutile continuare. Chi è? Chi è la portante? Vedi? Col ricevitore arriva. Parla Antonio un attimo. Parla se puoi. E parla. Ah, non parli? Devo far squillare il telefono. Come ti dicevo, Natà, il ricevitore riceve bene perché è uno stadio ricevente filtrato e fatto bene. Capito? Come ti buoni, bau bau, zero totale. È drammatica la cosa. Si arriva anche qua. La base X100 è come avere un. Caspita, adesso arrivi bene, veramente bene. Mia, che canzone natalizia, chi è che evoca il Natale, chi è? Ma cosa Natale, ma cosa Natale, ciao Marco, che combini così in agguato? Sempre la natalizia, aspetta, cos'era quella canzone tu? Aspetta, mi ricorda qualcosa ma non, la mia mente ormai è andata. L'ho detto tante volte, è la sigla di Radio Vaticana, che non è altro un'elaborazione di Christus Vincis, Christus Regnam. Ah, ecco, è sempre roba religiosa, sempre attinente a Gesù e Cristi, eccetera, siamo sempre lì. Buonasera, ben sentito, io mi approntavo qua a farmi due piattini, prove da altre parti, niente, qua viene abbattuta la ricezione. Il ricevitore non ha problemi, invece altro proprio incredibili. Ma ti riferisci alla CDR per caso, a quella scatoletta? No, no, no, no, il ricevitore Uniden e l'altro sarebbe il Bau Bau. Vabbè, diciamo che sono sempre cose da 13 comunque. Sì, sì, sì, comunque lo stadio proprio di ricezione porta dentro tutta la mondezza. È poco filtrato, quei portatili sono un poco filtrati, dai, niente da fare. Usate un antennino, quello è il suo scopo. Vediamo se Antonello è rientrato, o se è ancora là. Sono qua, li avete sentito tutti e due, non c'è problema. Sì, ecco perché io non lascio il ricevitore solo, non è utilizzabile qua. Ah, è caro. Ecco qua, ti ha detto. Lega. Sì, è un macello, cioè ci vuole roba di marca, amico, roba di marca. Altro che Bau Bau. Ciao Claudio. Siamo anche sul 10, vabbè già lo sai, già ci avrai minimo 10 apparecchi accesi. 7 ne ho accesi. Buonasera a tutti, ma è presto ancora, mi sto svegliando, ci sentiamo dopo. Eia. Anzi ti dirò che io credevo che fosse più presto, tipo le 4, invece vedo che sono le 5, meno 5. Io devo davvero fare roba in cucina, tipo togliere, sgombrare il lavandino da alcuni piatti. Gada non ce n'è, però devo farlo, se no non, poi mamma mi arroccia, capito? Riprendi Gianfra. Sì, buonasera anche a tutti gli altri. Dovevo chiedere una cosa, come è scappata la teleimmagine, la vecchiaia. Sì, ecco, ti volevo dire. Sì, stanno sempre diminuendo, tra poco te le regala, no? Te li mettono dentro la busta. Sono arrivati, credo a 20 euro. In alcuni posti mi è sembrato di vederli, che te ne danno due, però online, due al prezzo di 25 euro. Non so neanche. Sono in Italia. Figurati, dentro ci metto un integrato e basta. Ma quale modello? Gli 888 per caso? Guarda, non te lo so perché non riguardo neanche, perché quando vedi quei prezzi devi solo sorridere e basta. Sono proprio al minimo sindacale, capito? Oh Marco! Eia? Ma che scende molto, ci sei in radio? Quanto sarà? Tre quarti d'ora? Fammi pensare, forse un'oretta, c'era Bombolo, ho sentito Bombolo per primo, stavo provando se l'antenna c'era ancora e ho sentito lui che ha risposto, ho chiesto se c'era Luotta, poi è entrato Pomponio e poi Antonio Riserva, forse all'ascolto adesso, poi è entrato Natalino, ha salutato, poi è andato su, che già lo sai che è sempre l'annoso problema. Un'oretta massimo, tre quarti d'ora, un'oretta massimo. Io beh, se non ho chiesto chi c'era, non sapere se era entrato Torino, capito? Vabbè dai, già sono qua in ascolto io comunque, già ci sentiamo dopo, sì, sto ascoltando anche il PMR, già sono qua. No, no, Tonino no, negativo, non l'ho sentito né qua e né con ricevitore in PMR, non è entrato ancora. Dunque, Gianfranco sta usando l'omologato, giusto, il PNI, no? Sì, è quello. Dalla timbrica, l'ho riconosciuto per i toni un po' bassi, un po' troppo bassi, vabbè. In FM, però guadagna molto in FM, è che l'FM qua non c'è la cultura dell'FM, porca miseria, io per me modulerei sempre in FM, bello, tipo così, tipo VHF. più materna, cosa. Quello è ovvio. Io sento tutto impastato. Poi questa è la sera. La sera veramente, perché c'è la possibilità di fare ascolto fino a tardi, e la 27 è veramente piena, quasi tutti i canali sono compatti. sono i tedeschi che sono quasi tutti in FM, qui c'è una schiera di persone in, in banda laterale, ho notato che stanno usando adesso un po' tutti, chissà per quale motivo, a Magnotto, da l'LSB, non più l'LSB, ma l'LSB. Sono tutti portoghesi, spagnoli, brasiliani. Sì, allora ho notato io già da vari anni che comunque i portoghesi, non so per quale motivo, tipo Macaludo, no, come si chiama? Non lo spagnolo, quello portoghese, ha un nome particolare. Sono sempre in LSB, canale tipo 34 o 35. Forse si sta estendendo anche ad altre, ad altri paesi, non lo so, vabbè, contenti loro, poi l'una vale l'altra, però principalmente la USB viene usata. Sì, spagnoli, francesi, un po' di tutto, tedeschi e poi le altre lingue, magari qualcuno tipo Est Europa, non riconosco la lingua però. Infatti sembrano dialetti quasi, comunque è tutto portoghese, una cosa del genere. Si batte a volte, ogni tanto ci sono gli americani, perché si sentono, perché sono sguaiati, sembrano, sono la bocca impastata, lui stando un po' attento lo capisce inglese, però in versione americana, che è molto meno elegante, diciamo, ce l'ha tutta. Eia, adesso, vabbè, un passaggio, poi davvero mi levo di mezzo questi due piatti, due pentole, se no non va bene. Ti volevo dire, stavo guardando una puntata di quella cosa lì, la casa di carta, e ho visto che stavano usando degli apparecchi definiti onde corte, poi bisogna vedere dove trasmettevano effettivamente. Produzione inglese, mi pare seconda guerra mondiale, però gli avevano integrato un sistema di cifratura in ingresso e in uscita tipo 2400 livelli, insomma un ibrido tra vecchio e ultramoderno. Già è bella, si vedono usare una gran quantità di radio, di radiomicrofoni, di roba carina, interessante come serie, dai. Eh beh sì, se la guardi bene è un grosso investimento, anche dal punto di vista tecnologico, perché che discorsi del cazzo, hanno spazzolato con le bande lì e sono rimasti spiegati perché erano non decote, in realtà non decote sicuramente, e adesso ovviamente come tutti, tu quando devi parlare con lui spostati in un altro canale, come il film esagerano, perché dal punto di vista rimanendo che cazzo parla di cose che non interessa un cazzo, mentre io dei sistemi militari MELP, cioè volendolo fare dei sistemi militari, poi lo sento male, non capisco un cazzo di cosa stai dicendo, anche dei sistemi io capisco quando è possibile, anche se sono dedicati al digitale, però non credo che quello fosse digitale, comunque dei sistemi diciamo abbastanza che hanno messo in difficoltà quelli che l'ascoltavano, però tieni presente, tu quando andrai avanti vedrai che con i vecchi sistemi sempre vario goniometro eccetera qualche cosa di strano esce. Sì, ma se non è decifrabile poi siamo sempre lì. Allora, facciamo l'appello. Claudio, Pomponio, ci sei? Così io stacco e mi faccio questa roba in cucina, dai, se no qua è tribulato. Io già sono qua, ma non mi interessa l'argomento, quindi rimango in codice. Vai, allora i piatti e ci sentiamo più tardi con argomenti definitivamente diversi da questi. Ciao. È roba radio, è sempre roba radio, mi Claudio. Onde corte, dice trasmettitori. Siamo sempre lì, è una bella serie quella, vabbè, naturalmente bisogna dedicarsi perché non è un film, sono tante puntate e se perdi il filo poi non la segui più. Pomponio, ci sei ancora? Sì, dimmi tutto, dimmi. Stavo pensando di mettere l'antenna della televisione, che ha cancellato qualcosa, PML.